Focus Economia. Sono le 17:08, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, oggi 29 luglio. È una giornata nella quale accenneremo ancora una volta alle vicende di Fiat, soprattutto adesso nella prima parte quando vi daremo le notizie in breve. Parleremo di lavoro perché c'è la consueta indagine annuale, l'indagine Excelsior curata dalle Camere di Commercio, da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, dal quale continua ad emergere questo dato dal quale non riusciamo a sganciarci, ossia che ci sono delle imprese disposte ad assumere e però non trovano i lavoratori giusti e qualificati. Si parla di circa 150.000 posti di lavoro, insomma 150.000 figure professionali che le aziende non riescono a trovare, anche se comunque la situazione è ancora di difficoltà, eppure qualcuno che assume c'è. Parleremo della manovra, insomma sono in corso, si sta arrivando al voto finale, si è arrivati al voto finale per quanto riguarda la manovra, e vedremo di fare un punto che cosa è entrato, che cosa è uscito con il maxi emendamento del governo e quindi di avere un quadro definitivo di che cosa rappresenta questa manovra. E poi torneremo sulle vicende di Telefonica, ve ne abbiamo parlato ieri, e soprattutto vedremo di capire quale impatto ha l'operazione sulla quale c'è stato un accordo con Portugal Telecom per l'acquisto per il passaggio di Vivo, e vedremo di capire quale impatto ha sull'Italia e su Telecom Italia in particolare. Prima di tutto le notizie in breve di questa giornata. Iniziando dal petrolio, aperto in rialzo a New York con più 0,2% a $77,12 al barile. E sempre in tema di compagnie petrolifere, sono stati diffusi i risultati di ExxonMobil, che ha archiviato il secondo trimestre dell'esercizio 2010 con un utile netto per azione pari a $1,6, superiore ad $1,46 delle attese degli analisti. Altre trimestrali o semestrali, c'è quella di Telefonica, giusto appunto, ha chiuso il primo semestre 2010 con ricavi consolidati in salita del 5,4%. Per quanto riguarda l'utile netto a 3,7 miliardi dai 3,4 dello stesso periodo 2009, più 9,35%. Tra l'altro era più o meno nelle attese degli analisti, di poco superiore. Il gruppo Santander è il numero uno bancario della zona euro, ve lo ricordiamo, ha segnato nel primo semestre un utile netto di competenza di 4,44 miliardi di euro, in calo dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel secondo trimestre l'utile ha totalizzato 2,22 miliardi. Dicono da Santander che i risultati del primo semestre danno fiducia sul fatto che si otterrà un utile di esercizio simile allo scorso anno, che di questi tempi non è male. Ci sono anche i risultati di Lufthansa, che ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento del 118% a 194 milioni. La compagnia aerea tedesca sottolinea che la situazione antecrisi non è stata ancora raggiunta, non fissa target operativi per il 2010 e segnala i problemi che ha generato, perché li ha generati soprattutto nel centro-nord Europa, il vulcano islandese, lo ricorderete. Ha pesato per 200 milioni nel secondo trimestre. Bene invece Volkswagen, la casa automobilistica tedesca, ha chiuso il secondo trimestre 2010 con un utile netto di 1,25 miliardi di euro, in deciso aumento dai 283 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda invece le semestrali italiane, ci arriveremo più avanti nello spazio dedicato alla borsa. C'è Geox, c'è Azimut e c'è anche Pirelli. Oltretutto c'è anche la reazione di Finmeccanica ai dati che vi abbiamo fornito ieri proprio in chiusura, che sono dati negativi. Nel frattempo vi dico che i mercati sono abbastanza positivi, va giù la Germania, Francoforte cede lo 0,40%, poco sopra la parità il Dow Jones. In Italia il FTSE All Share guadagna lo 0,6%, altrettanto fa il FTSE 1000. Parlavamo di due aziende tedesche, veniamo proprio alla Germania. La disoccupazione in calo al 7,6% a luglio, dal 7,7% del mese prima. La Germania registra così un calo dei disoccupati per il 13° mese di fila. E buone notizie arrivano su questo fronte anche dagli Stati Uniti. Le richieste di sussidio di disoccupazione sono diminuite la scorsa settimana di 11.000 unità, quota 457.000. Il dato è migliore rispetto alle previsioni di un calo a 460.000. Dell'Italia si diceva, la Camera ha definitivamente approvato la manovra economica. Il testo sul quale ieri il governo aveva incassato la fiducia è passato a Montecitorio con 321 sì, 270 no e 4 astenuti. E arriva anche la reazione ufficiale della Commissione europea dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi per quanto riguarda la vicenda delle quote latte. Commissione europea che si definisce delusa di apprendere che l'Italia ha votato una misura che sembra essere contraria alle regole dell'Europa sul rimborso delle multe per il superamento delle quote latte. Ora esaminerà sotto il profilo giuridico il testo votato e non esiterà a intraprendere l'azione necessaria contro l'Italia se la misura non è conforme alle regole europee. A proposito di manovra, c'è l'intervento di Standard & Poor's che dice la manovra finanziaria è in grado di offrire sostegno ai rating sovrani dell'Italia. In una nota si legge i rating sovrani della Repubblica Italiana A+, stabile e A1+, sono supportati dall'approvazione in data odierna appunto del programma di consolidamento dei conti pubblici. Le vicende di Fiat, via alla New Co di Pomigliano. Da fine settembre tutti i lavoratori dello stabilimento Fiat di Pomigliano saranno riassunti dalla New Co, la nuova società costituita per gestire l'accordo del 15 giugno, lo ha riferito il segretario generale Fismic Roberto Di Mauro al termine dell'incontro in cui l'azienda ha comunicato ufficialmente ai sindacati appunto la nascita della New Company. Naturalmente questa New Company, quindi non Fiat Auto, vediamo di chiarirlo tutto, subito sarà fuori da Confindustria proprio per quelle deroghe ai contratti delle quali lungamente abbiamo parlato nei giorni scorsi. A proposito della disdetta al contratto nazionale, la Fiat ha comunicato che è già pronta ma è stata congelata per un paio di mesi in attesa di verificare se ci sono le condizioni per raggiungere un'intesa con Confindustria che permetta appunto deroghe al contratto evitando la disdetta. E l'esito dell'incontro di ieri del quale vi abbiamo riferito e vi abbiamo fatto sentire le voci tra Sergio Marchionne ed Emma Marcegaglia. Tra l'altro la Fiat vorrebbe un accordo quadro che definisca le condizioni per attuare il progetto Fabbrica Italia, massimo utilizzo degli impianti, flessibilità, garanzie. Insomma, si è data sostanza oggi a quel che ha detto ieri Sergio Marchionne. E ancora il ministro del welfare Maurizio Sacconi avanti su Pomigliano per un pieno utilizzo degli impianti. E ancora il Lingotto non rinuncia a Confindustria, dice Sacconi, sentiamolo al microfono di Savino Gallo. Bisogna andare avanti per non perdere opportunità che devono essere realizzate nel territorio italiano, nei siti produttivi italiani, come ieri ha confermato di voler fare Marchionne. In realtà si va sempre più attuando il nuovo modello contrattuale, quello non a caso non sottoscritto dalla CGIL. Il nuovo modello contrattuale ci dice che il contratto nazionale è una cornice leggera di diritti fondamentali, ma entro quella cornice poi ci deve essere molta duttilità, molta adattabilità nei diversi siti produttivi, nei diversi territori, fra le parti. Ci si adatta concretamente là dove si è prossimi al rapporto di lavoro in carne, ossa e bilancio aziendale. Ma molto soddisfatto della giornata di ieri perché ha riconfermato che c'è una piattaforma riformista che è pronta a sostenere politiche di investimento nel nostro paese. Questa piattaforma riformista è fatta da tutte le grandi organizzazioni sindacali. Vorrei tanto vi partecipasse anche la CGIL e mi auguro che vorrà riflettere sulla propria autoesclusione, ma questa piattaforma riformista c'è perché la Confindustria ha saputo offrire un ombrello adeguato a Fiat e Fiat quindi non rinuncia ad essere associata a Confindustria, non cerca strade al di fuori delle relazioni industriali e perché dall'altra parte CISL, UIL, UGL, Fismic hanno offerto una responsabilità sindacale intenzionati a condividere le fatiche ma anche i risultati perché poi devono salire anche i salari. Così il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Come si diceva, l'incontro di questa mattina si è però svolto a Torino. Sentiamo dunque il responsabile auto della FIOM CGIL, Enzo Masini, al microfono di Paolo Piacenza. Incontro di oggi, un po' dirigente della Fiat ha tradotto in termini di rapporti sindacali le questioni poste ieri dall'amministratore delegato. E le hanno poste dicendo che Pomigliano, l'accordo di Pomigliano per loro è il modello, un modello che dovrà valere per tutti gli stabilimenti di Fiat Group Automobile. Ma hanno anche aggiunto, e questo conferma i nostri timori e la nostra lettura dell'accordo di Pomigliano, che quell'accordo non è praticabile se non attraverso pesanti deroghe al contratto nazionale di lavoro. Hanno chiesto queste deroghe e intendono arrivare a praticarle attraverso un accordo nazionale. Per questo hanno congelato per 2 mesi una lettera di disdetta dell'adesione a Confindustria da parte di Fiat. Abbiamo ribadito e come FIOM non siamo disponibili, non eravamo e non siamo d'accordo con quell'intesa per ciò che riguarda Pomigliano, non lo siamo tanto più disponibili per un'estensione di quel modello. Enzo Masini, responsabile auto della FIOM. Sentiamo sempre al microfono di Paolo Piacenza invece Eros Panicali, che è responsabile auto della Wilm. Avendo accantonato la questione di Pomigliano, siamo andati avanti e abbiamo chiesto di procedere dando la nostra disponibilità su utilizzo degli impianti fino a un massimo di 18 turni, nuova organizzazione del lavoro e flessibilità. Pertanto vogliamo cominciare, dando questa disponibilità, ad affrontare stabilimento per stabilimento, e io ritengo a partire da Mirafiori, non con accordi fotocopia ma con accordi specifici sulla base delle esigenze dei singoli stabilimenti. Per quanto riguarda in generale i dati sull'industria, sono stati diffusi quelli del Centro Studi di Confindustria, secondo la quale l'industria accelera la ripresa, confermando a luglio il buon andamento di giugno. Un aumento dell'attività industriale dell'1,2% sul mese precedente e dell'8,1% nel confronto anno. E poi i dati Istat su occupazione e retribuzioni nelle grandi imprese. L'occupazione nelle grandi imprese a maggio ha registrato un calo dell'1,8% al lordo della cassa integrazione e di 0,5 punto percentuale al netto della cassa rispetto a maggio 2009. Per quanto riguarda le retribuzioni contrattuali orarie, nel mese di giugno sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2009 e dello 0,1% rispetto a maggio. Appunto, lo comunica l'Istat ricordando che l'inflazione a giugno ha segnato un più 1,3%. E veniamo al primo tema di giornata e parliamo di lavoro. Sono stati presentati i risultati del rapporto Excelsior, come si diceva in apertura, sull'occupazione, elaborato ogni anno da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro. Allora, crescono le assunzioni nel 2010, ma il saldo è comunque negativo. Si prevedono 20.000 assunzioni in più grazie all'aumento delle entrate, 802.000 previsioni di assunzione, e al rallentamento delle uscite di personale, 980.500. Il saldo, appunto, si diceva, resta comunque negativo. Le aziende mostrano cautela nel procedere a nuove assunzioni, preferiscono per l'inserimento di nuove risorse in aziende rapporti di lavoro flessibili. E poi c'è quello che forse è il tema centrale ogni anno in realtà di questo rapporto: si parla di 150.000 professioni introvabili. Per oltre 147.000 assunzioni le imprese segnalano forti difficoltà di reperimento, pari al 26,7% delle entrate programmate. Saluto Claudio Gagliardi, segretario generale di Unioncamere, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Gagliardi. Buonasera. Allora, ci dia una mano ad interpretare questi dati, a partire da queste 147.000 persone. Ci scrive un ascoltatore: le aziende non trovano i lavoratori, mi sembra riduttivo, avete verificato che le offerte economiche fossero adeguate alle competenze? Insomma, qua viene facile rispondere che insomma, se uno non ha lavoro, anche se l'offerta economica non è particolarmente adeguata, magari se la prende lo stesso. Però insomma, vorrei un giudizio da lei. Insomma, immagino che abbiate una visione un pochino più globale. Sembra che questo sia un difetto storico italiano, insomma non c'è il personale preparato nei posti giusti. Sì, è vero, questo è un problema che da anni si riscontra

per anni abbiamo rilevato una difficoltà per quello che riguarda figure come gli infermieri. L'addetto marketing corrisponde ad un rilancio delle aziende sui mercati internazionali e quindi le figure più ricercate in questo momento da queste aziende che stanno cercando di riagganciare la ripresa produttiva proprio all'estero, proprio attraverso le esportazioni, è di personale adeguato per scovare nuovi mercati e per trovare i partner commerciali all'estero, e questo secondo noi è un fatto molto importante. Poi non c'è dubbio, infermieri, farmacisti, ma poi hanno il 40% di difficoltà anche gli sviluppatori software. Non che manchino informatici nel nostro sistema formativo, dal nostro sistema formativo, ma evidentemente è il tipo di formazione richiesta che forse per l'azienda a quel punto è importante. Ed è soprattutto il mondo delle aziende della Lombardia che ci segnala questa difficoltà. Poi venditori tecnici, agenti di vendita, addetti alla logistica. Quindi questo significa che le aziende che si stanno riposizionando sui mercati puntano su figure di qualità e puntano su figure che abbiano profili professionali ben precisi, adeguati e che abbiano competenze non solo tecniche ma anche collegate alla capacità di lavorare in gruppo, che abbiano la capacità di risolvere i problemi e che sappiano assumersi responsabilità in autonomia per risolvere i problemi improvvisi che continuamente si presentano nell'azienda. Resti un attimo con noi, Gagliari, così chiudiamo il capitolo lavoratori che non si trovano, figure professionali che non si trovano, con le parole del ministro del welfare Maurizio Sacconi, e poi ho un'ultima domanda per lei un pochino più generale. Dunque sentiamo Sacconi. C'è una ripresa in corso che è selettiva, che è sostenuta soprattutto dalle esportazioni, che ovviamente deve essere valorizzata e sostenuta come stiamo facendo. Spesso purtroppo c'è un disallineamento fra domanda e offerta di lavoro. Vengono cercati lavori che talora non si trovano nel mercato del lavoro, nemmeno nelle aree a più alta disoccupazione. E di qui l'esigenza di capire quali lavori devono essere opportunamente formati, quali mestieri, quali competenze servono al mercato del lavoro nel breve periodo, nel medio periodo, anche nel lungo periodo, per orientare chi compie una scelta educativa all'atto dell'iscrizione all'università. E per questo noi ci stiamo attrezzando, presenterò oggi un piano di monitoraggio dei mestieri che sono richiesti dal mercato del lavoro più robusto, cioè attraverso un ampliamento del programma Excelsior e la sua combinazione con le indagini Istat di più lungo periodo. Noi stiamo cercando di incoraggiare i contratti di apprendistato, stiamo cercando di individuare anche con le regioni e le parti sociali delle linee guida che facilitino l'accesso al contratto di apprendistato, che è un bellissimo contratto, conveniente per il datore di lavoro, per il lavoratore, per il giovane e conveniente per il paese. Il miglior contratto di lavoro che ci sia è il contratto di apprendistato. Ho un'ultima domanda per lei, Gagliari. In realtà volevo ampliare un pochino il discorso, ma ce ne suggerisce una bella, un ascoltatore al 349-238-6666. Dice: difficoltà a trovare tecnici di profilo elevato, sarà che sono pagati la metà dei commerciali? Il problema delle imprese... Fuori di battuta, insomma. Certo. No, io penso che il problema delle imprese è la competizione sempre più anche sui mercati internazionali, e non credo che il costo del lavoro sia l'elemento che frena la ricerca di figure qualificate che possano far fare il salto di qualità alle imprese. Quindi questa è la sua opinione, insomma. Ringrazio Claudio Gagliardi, segretario generale di Union Camere, per essere stato con noi. Buonasera, Gagliardi. Buonasera a lei. Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le cose andavano molto bene fino a metà giornata, poi insomma c'è stato un lieve peggioramento. In chiusura il FTSE All Share guadagna lo 0,34%, il FTSE MIB lo 0,07%, nel resto d'Europa tutti gli indici sono negativi. Come mai sono peggiorate le cose in corso di giornata? Ma guarda, probabilmente si sta pensando al fatto che domani verrà pubblicata la prima lettura del PILAM, del prodotto interno lordo americano del secondo trimestre, c'è molta attesa e molto nervosismo. Peraltro ieri sera la Federal Reserve ha pubblicato il cosiddetto Beige Book e ha messo in evidenza che in alcune aree degli Stati Uniti la ripresa va a passo molto lento e inferiore alle attese dei mesi scorsi. Quindi c'è molto nervosismo e molti investitori hanno finito per prendere profitto, nonostante peraltro oggi ci siano stati comunque dei dati positivi. Questa mattina infatti in Europa è emerso che la fiducia dei consumatori e anche delle aziende è migliorata e inoltre nel primo pomeriggio anche le richieste settimanali alla disoccupazione sono calate nell'ultima settimana di 11.000 unità, attestandosi a 470.000 unità. Allora, Eleonora, io inizierei dalle ultime, perché un ascoltatore prima ci diceva già via SMS, prima ancora che iniziassimo, ma la semestrale dell'Enel è arrivata in corso d'opera, insomma, intorno alle 17.15. Com'è e che effetto ha avuto sul titolo? Sì, oggi infatti c'è un giorno pieno e ricco di trimestrali in Europa, così come anche a Piazza Affari. Per quanto riguarda l'Enel, l'utile netto del semestre è calato di oltre il 30%, del 31,2% in esattezza, attestandosi a 2,4 miliardi. E il titolo ha reagito comunque abbastanza positivamente, nel senso che in una seduta in cui numerose azioni hanno accusato delle perdite, Enel ha chiuso il bilancio positivamente con un progresso dello 0,34%. Sì, anche se a dir la verità, insomma, poco prima della diffusione dei dati guadagnava un punto percentuale circa. Iniziamo dal migliore del listino, cioè andiamo al migliore del listino. Ha diffuso i dati oggi anche Geox, utile netto a 37,9 milioni di euro, in realtà in calo del 32,99%, insomma del 33%. Come mai questa performance, un più 7,48% a 4,31 euro, Eleonora? Ma in questo caso Piazza Affari guarda senza dubbio al futuro, le indicazioni per il futuro sono positive, come è stato sottolineato dal presidente Mario Moretti Legato, infatti stanno andando bene gli ordini per la stagione autunno-inverno in rialzo del 2%. E poi appunto gli analisti hanno messo in evidenza che è vero sì che nel semestre anche gli utili, ma non solo gli utili, anche il fatturato è calato del 10%, d'altra parte negli ultimi mesi invece ha evidenziato un progresso del 4%, quindi c'è stato un miglioramento trimestre su trimestre. In particolare poi, come è stato sottolineato dai vertici dell'azienda, nei mesi di maggio e giugno c'è stato proprio un'accelerazione delle vendite che fa ben sperare anche per i mesi a venire. Allora, ci chiedono di Monte dei Paschi e di Unicredit. Guardate, oggi le banche sono andate sostanzialmente tutte bene, anche oggi per darvi un'idea. UbiBanca in guadagno dell'1,84%, la Popolare Milano dell'1,11%, stiamo cercando le altre, il Monte dei Paschi in guadagno dello 0,20%, Unicredit in realtà in perfetto pareggio, Intesa San Paolo in calo dello 0,58%. Il secondo titolo migliore sul FTSE MIB è Azimut, un più 4,74%. Anche qua ci sono i dati, primo semestre del 2010 con un utile netto a 46,1 milioni in linea con lo stesso periodo del 2009. Risultati stabili, dice l'azienda, nonostante mercati difficili, risultati stabili per un'azienda di risparmio gestito. Insomma, in questa fase evidentemente viene considerato buono. Telecom ancora in rialzo, qua c'è l'impatto tanto dei conti di Telefonica quanto di France Telecom. Esatto, oggi si può dire che le Telecom Italia hanno riconquistato quota 1 euro che non vedevano dallo scorso 18 maggio, e hanno registrato un progresso dell'1%, oggi va detto che è in spolvero un po' tutto il settore delle TLC in controtendenza rispetto all'andamento generico delle borse europee, il sottoindice Stoxx 600 è salito dell'1,58%, si è festeggiato un po' la buona semestrale di Telefonica e anche i conti di France Telecom che sono sì calati rispetto all'anno scorso, d'altra parte sono risultati sopra le attese, inoltre i vertici del gruppo hanno confermato per i prossimi 3 anni che daranno lo stesso livello di dividendo. Allora, andiamo tra i titoli negativi. Ieri, proprio in chiusura di trasmissione, abbiamo dato i risultati di Finmeccanica, che chiude con un utile netto in calo del 19,8%, chiude il semestre naturalmente, ricavi saliti dell'1,5% e però gli ordini scendono del 3,3%, quindi calo in borsa del 3,69% è dovuto a questo. Insomma, ieri il mercato non aveva avuto tempo di reagire, banalmente perché era già chiuso, Eleonora. Esattamente, anzi i titoli di Finmeccanica sono andati in controtendenza per tutta la seduta, sin dalle prime battute di questa mattina hanno imboccato la strada del ribasso e anzi sono andati accelerando verso il basso proprio nel corso della seduta. Evidentemente la semestrale non è affatto piaciuta e soprattutto, come hai sottolineato tu, non è piaciuto l'andamento degli ordini, che sono calati del 3,3% a 8 miliardi, quindi un andamento un po' preoccupante, nonostante comunque l'azienda abbia confermato le previsioni per l'intero 2010. Così come probabilmente sono ancora le cose dette per quanto riguarda gli ordini ad incidere sull'andamento di Ansaldo STS, il calo è del 3,44%, non vi abbiamo dato la quota dell'euro contro dollaro a 1,30,65, ancora in rafforzamento, e immagino, Eleonora, che sia questo che ha un impatto tanto su Luxottica quanto su Autogrill. Eh sì, esattamente, ricordiamo che Autogrill fattura quasi la metà del proprio giro d'affari oltreoceano, quindi il movimento del dollaro è molto seguito dal mercato e impatta sempre sul titolo, altrettanto si può dire di Luxottica. Bene, grazie anche per oggi ad Eleonora Micheli di Radio Cuore il Sole 24 Ore per essere stata con noi. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. E vediamo di dare un quadro finale di questa giornata. Bene, anche Mediolanum oggi un più 2,38%, Saipem in guadagno dell'1,83%, omettiamo i titoli che vi abbiamo già, dei quali vi abbiamo già parlato, Exor in guadagno dell'1,82%, Lottomatica dell'1,44%, Snam Rete Gas dell'1,34%, oltre un punto percentuale di guadagno per la Popolare di Milano, Ciri, Talcementi, Mediobanca e Telecom Italia, come si diceva, appena sotto A2A. Buzzi Unicem guadagna lo 0,84%, lo 0,71% Fiat, lo 0,46% Tenaris, lo 0,34% si è detto Enel, Pirelli lo 0,27%, anche qua sono stati diffusi i conti, e lo 0,26% Unipol, Monte dei Paschi in guadagno dello 0,20%, intorno alla parità generale Unicredit, Banco Popolare, giù dello 0,24% Terna e Bulgari, dello 0,32% Eni, dello 0,36% Fondiaria Assai, di circa mezzo punto percentuale Atlantia, ST Microelectronics, Intesa San Paolo, Parmalat dello 0,67%, anche Parmalat ha diffuso i conti, Mediaset dello 0,69%, Autogrill dello 0,77%, un pregiro dello 0,85%. Di un punto percentuale circa, tanto Prismian quanto Campari, di Luxottica, Ansaldo e Finmeccanica si è detto, e anche dell'euro che quota 1,30,65 contro dollaro. Passiamo all'altro tema di giornata, in parte correlato alle questioni di mercato, ossia Telecom Italia. E più che di Telecom Italia propriamente parliamo di Telefonica. Perché? Perché Telefonica, ve lo abbiamo raccontato ieri, ha siglato con Portugal Telecom, dopo una vicenda che si è trascinata per qualche mese, un accordo per l'acquisizione da parte di Telefonica del 50% di Brasilcel, società che ha in portafoglio il 60% di Vivo, operatore brasiliano di telefonia mobile. Telefonica ha sborsato 7 miliardi e mezzo di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto all'iniziale offerta presentata lo scorso maggio. E Telefonica rafforza così sensibilmente la sua presenza nel principale mercato dell'America Latina, dove opera anche e da parecchio tempo Telecom Italia attraverso Team Brasil. Vi abbiamo raccontato tra l'altro di come questo ieri avesse avuto un impatto anche sul titolo di Telecom in borsa, soprattutto per quanto è stata pagata questa benedetta Brasilcel. Saluto intanto Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Buonasera. Telecom è controllata al 24,5% dalla holding Telco, di cui il primo azionista è proprio la spagnola Telefonica con il 46,2%. Allora, Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, che partita si apre a questo punto? Diciamo che le aspettative sono un po' su che cosa farà Telefonica adesso, visto che è Telefonica che si è mossa con determinazione per consolidare la sua presenza in Brasile. Bisogna ricordare anche che quando Telefonica entrò nel capitale di Telecom Italia attraverso Telco, in realtà lo fece in qualche modo per stoppare il suo rivale in America Latina, che è tuttora Carlos Slim, il ricchissimo magnate messicano di origine libanese. E quindi, avendo avuto quello che voleva in Brasile, cioè la possibilità di aggregare il fisso che ha già nello Stato di San Paolo con il mobile che deteneva in joint venture con i portoghesi, diciamo che Telefonica in qualche modo ha meno motivazioni per restare ancorata a Telecom Italia. Però il problema è che Telefonica sta sopportando una forte minusvalenza potenziale, perché ha acquistato a prezzi elevatissimi, 2,85 euro per azione. Adesso era un buonissimo premio, ma adesso il titolo vale 1 euro. Poi la quota di Telco è stata svalutata a 2,2 euro, comunque è più del doppio rispetto alle quotazioni attuali. E quindi diciamo che non avrebbe alcun interesse a uscire dalla compagnia di riferimento, perché questo premio svanirebbe del tutto. E detto questo, però, c'è un po' da capire dove vuole andare a parare questa alleanza. Di fatto va a fare concorrenza ad un gruppo del quale è tra i principali azionisti. Già faceva concorrenza prima, perché già in Vivo è il primo operatore mobile brasiliano, e Team Brasil attualmente è il terzo per quota di mercato. Il problema è che Vivo non riusciva ad essere sfruttato appieno per le sinergie con Telefonica, in quanto appunto in condominio tra Telefonica e Portugal Telecom. E a questo punto però Telefonica ha la possibilità di sviluppare le sinergie, di portare avanti il suo piano industriale, e teoricamente, anzi per questioni regolamentari, la concorrenza tra i due gruppi in Brasile è... Ecco, esattamente questa è una domanda che ci arriva da un ascoltatore, dell'ultima che ti faccio. Come la mettiamo con l'autority brasiliana? Non cambia nulla, nel senso che l'autority brasiliana, sia l'Anatel che l'autority delle TLC, sia l'antitrust, avevano stabilito che stava bene così, purché le attività dei due gruppi fossero completamente separate, quindi garantite in assoluto la concorrenza. Il fatto che adesso Telefonica abbia il 100% della scatola di controllo non cambia rispetto a prima, quando aveva il 50%. Però volevo far notare una cosa, che in effetti il mercato non sta apprezzando appieno un elemento. Vivo è vero che è il primo operatore mobile brasiliano, però non era gestito al meglio, appunto per questa diatriba tra i soci, e è stato valutato dalla mossa di Telefonica circa 23 miliardi di euro il totale, il che vuol dire molto di più di Telecom Italia, compresa la sua costola in Brasile. E forse il mercato anche su questo dovrà riflettere. Grazie nel frattempo ad Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Buonasera Antonella. Arrivederci. E affrontiamo l'ultimo argomento di giornata. Abbiamo qualche minuto per toccare il tema della manovra, che insomma finalmente è stata approvata definitivamente. Vogliamo fare un punto, per quanto abbastanza breve visti i tempi stretti, sui provvedimenti che sono entrati in vigore, perché poi ci sono stati parecchi cambiamenti, come sapete, col maxi emendamento del governo. E quindi insomma forse si rischia di fare un po' di confusione. Poi nei prossimi mesi naturalmente avremo tempo di approfondire. Oggi su questo firma una bella pagina sul Sole 24 Ore Gianni Trovati, che ci ha testé raggiunto in studio dando il cambio ad Antonella Olivieri. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, vediamo di cercare di fare un punto, per quanto, come dire, il sia decisamente molto ampio. Io partirei da il tema del fisco, che è forse il primo di questo schemino che viene presentato sul Sole 24 Ore di oggi, in particolare sulla lotta all'evasione fiscale. Un tema che abbiamo toccato molto e continua ad essere molto caldo e a suscitare anche tensioni, in particolare il redditometro. Gianni. Sì, allora, infatti il fisco, in particolare il redditometro, è tra i provvedimenti che di fatto entrano subito in vigore, nel senso che poi i controlli da redditometro con il nuovo sistema che appunto misura la capacità di spesa dei contribuenti sulla base, anzi misura il reddito presunto dei contribuenti sulla base della loro capacità di spesa, i controlli, dicevo, con questo nuovo sistema saranno fatti l'anno prossimo, ma sulle dichiarazioni che si fanno adesso, per cui i contribuenti che devono fare unico 2010, insomma entro settembre, sappiano che quello che loro scrivono quest'anno sarà sottoposto al vaglio di questo nuovo sistema che promette di essere molto preciso e dettagliato. Questa famosa figura, il contribuente infedele, dunque faccia attenzione a quello che scrive nella dichiarazione dei redditi di quest'anno. Esattamente, perché barche, ma anche iscrizioni a scuole private, club, insomma tutti gli indici di spesa che faranno al fisco presumere un reddito tendenzialmente diverso da quello che viene dichiarato, faranno scattare i nuovi controlli a cui partecipano anche i comuni. Allora, dei tagli vi abbiamo parlato in qualsiasi maniera, in qualsiasi salsa: dipendenti pubblici, manager, enti territoriali e via dicendo. Molto brevemente, Gianni, l'impresa, le imprese, la famosa impresa in un giorno. Ecco, è l'altra cosa che entra in vigore subito, la cosiddetta SCIA, cioè la segnalazione certificata, che permetterà di avviare l'impresa, avviare l'attività, diciamo, segnalando agli enti locali con una segnalazione certificata, con una serie di dichiarazioni sostitutive, senza dover aspettare il via libera da parte dell'amministrazione. L'amministrazione avrà invece 60 giorni per fare dei controlli ex post, e se proprio scopre qualcosa di incompatibile con il mantenimento dell'attività, la fa fermare. La novità è che invece fino a ieri, diciamo, anzi fino a oggi, nel senso che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale domani, bisognava prima aspettare il via libera, bisognava presentare i documenti e aspettare il via libera dell'amministrazione. Adesso il meccanismo si inverte, si parte e si aspetta, nel caso, le obiezioni dell'amministrazione. Bene, e poi ci sono anche, sempre sul fronte delle imprese, altri provvedimenti interessanti. È un tema che abbiamo toccato nei giorni scorsi, è quello che riguarda le reti d'impresa. Come si tenta di favorirle? Sì, questo è un nuovo tentativo, come dire, di individuare delle agevolazioni fiscali per far sviluppare un'impresa, diciamo, diffusa all'interno di un dato territorio. Quindi, un po' come era successo con alterne fortune per quanto riguarda le zone franche, che poi avevano avuto un problema sia di finanziamento sia di continuità tra il governo Prodi che le aveva istituite e il governo Berlusconi che le doveva gestire. Comunque il significato è sempre lo stesso, cioè basandosi sulla caratteristica principale dell'economia italiana per distretti, per reticolati di impresa sul territorio, PMI, trovare agevolazioni fiscali mirate all'interno di singoli settori produttivi e di singoli territori, che permetteranno appunto alle singole imprese di non affrontare di più da sole la partita fiscale, ma di compensare tra di loro e quindi avere più forza. Grazie dunque anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. E chiudiamo così anche questa puntata di Focus Economia. Con un lieve ritardo ce ne scusiamo con il giornale radio. Grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.